Un altro obolo, 5 euro prelevati dalle tasche di ogni italiano, neonati compresi, per allungare la vita a un carrozzone che perde 1 milione di euro al giorno e che la politica non riesce a guarire, ma nemmeno a chiudere. Il prestito ponte all'Alitalia, 300 milioni di denaro pubblico, è in realtà una scommessa al buio. 300 milioni, ha chiesto Berlusconi, il triplo di quanto voleva stanziare il governo Prodi. Il motivo è semplice: caduta l'offerta di Air France, che si impegnava anche a una ricapitalizzazione da 1 miliardo per far ripartire l'Alitalia, non si intravedono altri pretendenti intenzionati a impegnare una somma necessaria a rilanciare la compagnia. L'ipotetica cordata italiana non decolla e all'orizzonte non ci sono neppure gruppi stranieri, a parte la russa Aeroflot, sulla quale però ci sono molte perplessità.